Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. John Day Rem per introdurre questa nuova puntata del Cacciatore di Libri versione estate, parole e musica. La musica appunto quella dei Rem, le parole sono quelle di uno scrittore sudamericano, precisamente argentino, che però ormai vive in Spagna. Lui si chiama Andrés Neumann e ha scritto un romanzo veramente bello, bello, bello. Si intitola Parlare da soli, l'ha pubblicato in Italia Ponte alle Grazie. Questo scrittore Neumann ha avuto addirittura i complimenti di uno dei simboli della letteratura sudamericana, ossia il cileno Roberto Bolaño. Bolaño scrisse di lui: Andrés Neumann è toccato dalla grazia. Ogni buon lettore ritroverà nelle sue pagine ciò che è dato incontrare solo nella grande letteratura. Insomma, uno scrittore consigliato più che dal cacciatore di libri da Roberto Bolaño, e non è poco. In questo romanzo, Parlare da soli, ci sono tre personaggi: un uomo che sta morendo per una malattia, un figlio di 10 anni e la moglie di lui. L'uomo, che appunto sta morendo, decide di portare il figlio a fare un viaggio in un camion perché vuole lasciargli dei bei ricordi, vuole lasciargli un ricordo particolare. Il figlio, c'è il punto di vista del figlio, che insomma non capisce quello che sta accadendo intorno a sé. E poi c'è la moglie, che addirittura ha una relazione sessuale con l'oncologo del marito. Sembra una storia insomma di cattivo gusto, invece vi assicuro che leggendo il romanzo si capiscono anche le ragioni, anche perché Neumann approfondisce moltissimo la psicologia femminile. Ogni capitolo è narrato in prima persona, dall'uomo malato, dal bambino di 10 anni e dalla moglie che tradisce. Ma per prima cosa ho chiesto a Neumann come si è sentito quando ha saputo che Bolaño gli aveva fatto dei complimenti così grandi. Sentiamolo. Un attacco di panico. Además, el pobre Bolaño no está aquí para defenderse y cambiar de opinión. Un attacco di panico. Il povero Bolaño non è qui per dire se ha cambiato opinione. Ovviamente è un complimento che ho gradito moltissimo, ma temo che siano parole così importanti che alla fine i lettori possono rimanere delusi. Il commento di Bolaño era stato espresso probabilmente prima della scrittura di questo romanzo, perché ricordiamo che tu hai scritto altri romanzi come Il viaggiatore del secolo, che è stato pubblicato sempre da Ponte alle Grazie nel 2010, e poi Una volta l'Argentina, pubblicato nel 2011. Ma veniamo a Parlare da soli, un romanzo che io ho trovato veramente molto toccante, molto bello, oltre che una scrittura veramente intrigante, appassionante, proprio l'analisi psicologica dei personaggi che mi ha colpito. La storia è molto semplice, non c'è una trama difficile. C'è un uomo che sta morendo per una malattia e c'è un figlio con il quale lui decide di fare un viaggio nel camion, così per lasciargli un bel ricordo. E poi c'è la moglie di quest'uomo malato, che si chiama Elena, e che ha tutta una serie di conflitti, perché da un lato assiste il marito malato, ma dall'altro lo tradisce, e vedremo il perché. Allora, partiamo dal bambino, che è il primo insomma che inizia a raccontare questa storia. Che rapporto c'è fra questo bambino, Lito, di 10 anni, e suo padre? È una relazione trágica desde el punto de vista temporal. Hay mucho que intercambiar y poco tiempo. È un rapporto tragico dal punto di vista temporale, perché c'è molto da scambiare in poco tempo. È una situazione che esagera la vera e propria paternità. Los padres desean intervenir en la memoria y el futuro de sus hijos. I padri desiderano incidere dei ricordi nella memoria dei figli prima di morire. E questo è quello che fa Mario in modo molto drastico. Y es una relación muy emocionante, como tú has dicho, muy muy conmovedora. È un rapporto molto emozionante, come hai detto, molto commovente. Ma c'è anche un risvolto luminoso. Un risvolto vitale, e si tratta di amare il più possibile nel modo più veloce possibile. Quindi c'è questo elemento di enorme vitalità. Infatti il viaggio nel camion è metaforico, perché tutti i genitori sentono di essere nel viaggio di ritorno della vita, mentre i figli stanno facendo il viaggio di andata. E così il camion è il tempo stesso. Sienten che stanno nel viaggio di vuelta della vita, mentre i figli stanno nel viaggio di ida. Así que ese camión es el tiempo mismo. Il bambino è molto divertente, mi è piaciuto tracciare il suo ritratto, perché sono tornato bambino anch'io. La vera differenza tra i bambini e gli adulti, a parte le diverse responsabilità, è che i bambini non hanno bisogno di un pretesto per giocare, invece gli adulti sì. E il pretesto, in questo caso, è la letteratura. È che i bambini juegan sin necesidad de pretexto. Y los adultos necesitan un pretexto para jugar, por ejemplo, la ficción o la literatura. Come dicevi tu prima, effettivamente non c'è solo tristezza e dolore in questo romanzo, c'è anche un aspetto luminoso. Il romanzo è diviso per capitoli, l'innarrante di volta in volta è il bambino, la mamma o il papà. E il papà, quando parla il papà, c'è sì tristezza perché sa che dovrà morire e lasciare suo figlio, però c'è anche una voglia di trasmettere la sua vita e i suoi valori a questo figlio, a questo bambino, in qualche modo di andare oltre la morte, è così? Claro, sì, hay algo trascendente en la reproducción. Sì, effettivamente c'è qualcosa di trascendente nella riproduzione e non si tratta di qualcosa di biologico, ma di psicologico. Avere un figlio è un modo terreno di avere una memoria postuma, avere una parte di te che non morirà con te. È una cosa importante. E lo dico io che non ho figli. Y lo digo yo que no tengo hijos. Il personaggio che mi ha affascinato di più di questo romanzo è forse Elena, il personaggio femminile, perché si vede in lei il dolore, ma anche il tormento, il senso di colpa, è quello probabilmente più sfaccettato dal punto di vista psicologico. Elena, appunto, è il marito che sta morendo di malattia, e però lo tradisce. Perché? Perché toda persona che sobrevive se siente una traidora. Cuando seguimos viviendo después de que un ser querido muera, sentimos una mezcla de alivio y de culpa. Perché chi sopravvive si sente un traditore. Quando continuiamo a vivere dopo che qualcun altro è morto, c'è un misto fra sollievo e colpa. Sollievo perché continuiamo a vivere, ma colpa perché non siamo riusciti ad accompagnarlo alla fine. L'infedeltà sessuale di Elena è una sorta di sintesi brutale delle emozioni che provano le persone che assistono un malato. Il romanzo stesso è un libro su chi assiste, le persone la cui vita cambia per sempre dopo essersi occupate di chi stava morendo. C'è una sorta di tabù, un silenzio intorno a chi accudisce le persone che soffrono. Del malato si parla, ma non si parla abbastanza di coloro che assistono. È il protagonista occulto della malattia. Come ricostruisce la sua vita dopo il lutto, come si torna alla vita dopo la morte. Questo include il piacere, la colpa del piacere e il capire che vale la pena vivere. È una sorta di dopoguerra interiore. Es algo así como una posguerra interior. C'è una frase a questo proposito di questo romanzo che mi ha colpito particolarmente. Tu scrivi: crescere un bambino e curare un malato hanno questo in comune. Entrambi gli impegni ti trasmettono un'energia che in realtà non è tua. Te la infondono loro, il loro amore ansioso, la paura in agguato. Io trovo questa frase molto, ma molto vera. Vorrei capire come sei arrivato tu ad elaborarla, cioè frutto di una tua esperienza personale, questa visione del dolore, della malattia, dell'accudimento e quindi del paragone fra il bambino e il malato. Bueno, es frutto, come quasi tutto lo che nos importa, dell'esperienza personale e l'osservazione dello ajeno. È frutto, come tutto ciò che è importante, dell'esperienza personale e anche dell'osservazione di ciò che ci circonda, degli altri. del dolore di se stessi e della curiosità. Io ho avuto un'esperienza personale, effettivamente, perché ho accudito sia mia madre che poi mio padre. È il momento personale in cui si capisce come diventare genitore dei propri genitori. È quello il momento in cui finisce l'infanzia, non il dato anagrafico. Per quanto riguarda invece l'esperienza altrui, sono molto interessato al punto di vista femminile. Credo che esista una grande lacuna negli uomini. Non riescono a comprendere il vissuto dal punto di vista femminile. La gran laguna nell'educazione masculina, no? La comprensione della vivenza della società desde il punto di vista femminile. E entonces mi interessava che ese cuidador non fosse un uomo. Per questo ho voluto che nel romanzo chi assiste il malato non fosse un uomo, ma una donna, in modo da mostrare in modo estremizzato il conflitto di chi accudisce. Non solo ha gli obblighi di chi accudisce, ma si porta addosso un'educazione che costringe a occuparsi degli altri, come madre, come moglie. Ha una pressione doppia, si somma il ruolo familiare e il ruolo sociale, i sentimenti e l'ideologia. Più forte è il ruolo sociale imposto, più forte sarà la ribellione. Más roles sociales contra los que protestar. Come hai fatto a entrare così bene nella psicologia femminile? In primo luogo, tenendo molto chiaro che lo che chiamiamo femminismo o la teoria di genere è molto utile per l'uomo. In primo luogo, tenendo presente che quello che chiamiamo femminismo o la teoria dei generi è molto utile agli uomini. La teoria dei generi insegna agli uomini a capire come sono stati educati nella società. Si parte dall'idea che il femminismo non è una concessione che viene data con fare paternalistico. La destrutturazione del patriarcato aiuta a comprendere, a te uomo, questa sorta di autoinganno nel quale siamo cresciuti. La mia sfida come narratore era di riuscire a concepire e scrivere una voce femminile che non sembrasse immaginata partendo dal patriarcato. Era la prima volta che ci provavo. Avevo già descritto personaggi femminili, ma non erano mai loro che parlavano. Dopo 4 romanzi ho pensato che fosse il momento giusto. Mi ero preparato tutta la vita a dar voce a un personaggio femminile. Credo che una delle cose che dobbiamo fare gli uomini è molto sencilla e la facciamo poco. Hay que leer a más mujeres y hay que ver películas filmadas por mujeres. Noi scrittori uomini dovremmo leggere molto di più libri scritti da donne, vedere film diretti da donne, in modo tale da capire di più la loro personalità. Ci sono 2 scrittrici che mi hanno aiutato a capire il punto di vista femminile. Si tratta di Virginia Woolf e, come autrice contemporanea, di Margaret Atwood. C'è una citazione di Margaret Atwood che penso riassuma bene l'ideologia di Elena. Il problema di Madame Bovary, dice la Atwood, non è stato l'infedeltà, ma una cattiva gestione del denaro. Cioè non si trattava di un problema morale, ma di un problema di bilancio. Il problema di Madame Bovary non fu morale, fu presupuestario. E bueno, questa specie di visione sarcastica del ruolo tradizionale della mujer. C'è una visione sarcastica del ruolo tradizionale della donna che è molto presente in Elena ed è parte di queste contraddizioni che sono molto vive nel suo personaggio e che per me sono importanti. Non c'è personaggio se non ci sono delle contraddizioni, altrimenti c'è moralismo e in ultima istanza religione. Hay en el fondo religión. Allo scrittore argentino che ormai vive in Spagna, Andrés Neumann, dedichiamo questa canzone di un gruppo spagnolo, Héroes del Silencio. Noi ci risentiamo dopo la viabilità. Il cacciatore di libri. per commentare musicalmente il suo romanzo Dressing Up dei Cure. Il romanzo si intitola Ora ed è stato pubblicato da Marsilio. Avevamo già parlato diverse volte di Mattia Signorini in occasione di altri romanzi, Lontano da ogni cosa, La sinfonia del tempo breve. Quest'anno vi abbiamo parlato appunto anche di quest'ultimo romanzo. Protagonisti un fratello e una sorella, Ettore, che ha questa sorella che si chiama Claudia. Entrambi hanno perso i genitori. Ettore torna da Milano nel paese di origine per sbrigare apparentemente alcune faccende pratiche legate alla vendita della casa dei genitori appunto ormai morti, ma in realtà è un viaggio soprattutto dentro se stesso per ritrovare le sue radici e per ritrovare valori che aveva momentaneamente dimenticato. Sentiamo allora Mattia Signorini. Ettore credo sia un ragazzo come tanti che ha deciso nel libro per una sorta di fortissimo conflitto con la famiglia, dettato da piccoli screzzi come succede in tutte le famiglie, piccole cose non dette che poi sono diventate una grande valanga e hanno creato il silenzio all'interno della famiglia. È un ragazzo che appunto è fuggito da un piccolo paese sugli argini del Po per andare a tentare non tanto la fortuna quanto forse la vita, quanto una nuova vita in una grande città. E in seguito alla morte dei genitori, con una sorella incinta, e con questo il ragazzo di questa sorella che è fuggito, cioè è scappato all'estero. Insomma, una ragazza madre. Ed entrambi in questo momento senza un lavoro decidono di fare la cosa che si erano ripromessi di non fare, cioè vendere la casa dei loro genitori, che in un certo senso sono tutti i ricordi belli che gli rimangono prima della fuga di Ettore e poi di sua sorella che ha deciso di seguirlo. È molto bello nel romanzo questo rapporto fra fratello e sorella. Hanno un rapporto proprio intenso, complice, da piccoli si sono quasi difesi l'uno con l'altro dai genitori e ancora adesso da grandi hanno questo rapporto di grandissima protezione, soprattutto Ettore nei confronti di Claudia. Beh, io credo nel libro... Ettore, che era il fratello maggiore, ha sempre difeso Claudia dagli attacchi del padre, questo padre molto autoritario, molto forte, che voleva preservarli dal mondo e chiudere in una campana di vetro, solo che ha scelto l'arma della rabbia e non dell'ascolto. E quindi forse Ettore è allo stesso tempo un fratello di un padre, e io così l'ho inteso nel libro. Quando cresci con un fratello padre, probabilmente non ti ci puoi più staccare. In questo romanzo è molto presente il tema del ritorno. Ettore, Claudia, insomma, da Milano tornano nel paese d'origine, il ritorno alla provincia, la presenza di questo fiume del Po che tu nomini proprio spesso nel romanzo. Il fiume ha una certa importanza. Si capisce che c'è qualcosa di molto tuo in questo. Tu sei nato a Rovigo, insomma, in una zona di provincia. Beh, il fiume Po non era molto distante da casa mia. E in bicicletta mi ricordo quando ero adolescente e le cose proprio non andavano. In un'ora e mezza di forti pedalate si arrivava sull'argine. E a me sembra rimasto questo dentro, anche se poi ho vissuto prima a Padova, poi tanti anni a Milano. È rimasta l'idea che il fiume abbia due sensi molto forti all'interno e opposti, che sono un senso di libertà, di apertura, e anche un grande senso di confine, perché al di là non puoi andare, come il bambino di Truffaut quando scappa dalla famiglia e si trova davanti al mare. Ecco, per me è stato il fiume. E la provincia, insomma, si sente che... Cioè le pagine sulla provincia che tu descrivi sul ritorno sono molto intense, insomma si avverte che sono state vissute. Io credo che sì, poi sia l'Italia in qualche modo. Non volevo raccontare tanto la provincia veneta, ma quanto un'idea di provincia italiana, perché poi sono tutte simili da nord a sud. L'idea di un ritorno in provincia è anche l'idea di tornare a rallentare la propria vita. Dopo tanti anni a Milano mi sono accorto... Uno dice, poteva accorgersene prima, però macina dentro di te un po' alla volta. Ti accorgi che quando corri, perdi qualcosa, e molto spesso quel qualcosa è te stesso. E la provincia forse ti dà meno possibilità, ma quelle poche che ti dà te le fa vivere appieno. Tu questo libro l'hai scritto a Milano? Questo libro l'ho scritto a Milano, sì. E poi invece, dopo averlo scritto, sei tornato in provincia? E poi è successo, sì, è un libro... biografico al contrario. Di solito si prendono episodi della propria vita e in qualche modo si cerca di trasformarli in narrativa. Io in realtà ho raccontato una storia che non c'entrava assolutamente niente con me. Poi quando ho finito la prima stesura del libro l'ho riletta e, come se fossi stato quasi un anno dallo psicologo, probabilmente, forse ho pensato che il mio inconscio voleva dirmi qualcosa. E poi i casi della vita mi hanno portato a firmare con Marsilio, che è un editore del Veneto, e ho detto, forse mi sono detto, è proprio un ritorno a casa, la in mia tutti i sensi. Le energie che mi stanno intorno mi stanno indicando qualcosa, e quindi dopo aver firmato il contratto ho fatto, come si suol dire, armi e bagagli e sono tornato. E sei tornato. In questo romanzo, che lo ricordiamo si intitola Ora, dicevamo, si analizza anche il rapporto fra un fratello e una sorella, che è un tema abbastanza tipico degli scrittori giovani. Penso per esempio a Paolo Giordano, che ha spesso parlato di fratello e sorella, una giovane scrittrice come Gaia Coltorti, con la sua opera prima addirittura lì si arriva ad un rapporto incestuoso fra il fratello e la sorella. Come mai, secondo te, voi giovani scrittori analizzate molto questo rapporto familiare? Ma io non so se l'ho ho voluto analizzare in realtà un rapporto fraterno. Mi interessava mettere insieme due persone legate da un filo. Nelle prime pagine del libro ci sono Ettore e Claudia all'interno di questo bilocale al decimo piano di un palazzo della periferia di Milano. Dice il libro che, guardandoli da fuori la finestra, probabilmente potevano sembrare due amanti. Sì, due fidanzati, invece, assolutamente. In realtà erano solamente un fratello e una sorella, e tutto quello che rimaneva della loro famiglia. Ci sono dei legami che possono finire, e ci sono invece dei legami che, anche se li butti via, non potranno finire mai, che sono quelli della famiglia. E mi piaceva l'idea di raccontare due parti di una famiglia, giovani, che hanno ancora davanti tutta la vita e che sono spezzati nell'anima, e solamente restando insieme possono riuscire a superare. Possono affrontare la certo. vita, insomma. Tu sei figlio unico o hai fratelli? No, io sono figlio unico. Ecco, quindi guarda, anche in questo caso Freud avrebbe molto da dire sul probabilmente fatto che... avrebbe moltissimo da dire. Sul fatto che hai voluto in parte concentrarti sul rapporto fra fratello e sorella. Mentre Ettore e Claudia parlano, comunicano, c'è un problema di grande incomunicabilità fra loro, ragazzi, prima bambini e poi ragazzi, e i genitori, soprattutto il padre. E anche questo è il motivo per cui si scappa dalla provincia, dalla famiglia e si va via. Beh, molto spesso in provincia non ci sono delle grandi possibilità e non ci sono dei grandi orizzonti. La provincia ha dei lati molto positivi, che sono quelli di essere in genere una piccola comunità dove tutti si conoscono e si aiutano, ma anche che soffoca, perché tutto ciò che non fa parte di quella comunità viene ritenuto straniero, viene ritenuto quasi da evitare. Quindi, e questa è un'esperienza che io ho vissuto tutta la vita, e sulle mie spalle in prima persona, quando nasce qualcuno che non la pensa esattamente come la pensano quasi tutti, il primo desiderio è scappare, e viene escluso in primis dai genitori, in genere, che cercano di rimetterlo nel binario corretto. Come mai hai deciso di dare questo titolo così secco al tuo romanzo, Ora? Ecco, se dovessi raccontare il romanzo in poche frasi, ti direi che è la storia di un ragazzo che non riesce più a guardare avanti e della sua amicizia con una signora molto anziana che vive appunto in questa provincia. E che era, insomma, un fantasma del suo passato. E che era un fantasma del suo passato, era una signora di cui avevano già, quando erano bambini, tutti timore, perché è una vita che vive con i piedi a mollo nell'acqua, una grande tunica bianca, i capelli lunghi bianchi fino alla vita, e guarda un punto indefinito in mezzo al fiume, e nessuno sa cosa guarda. Certo, per i bambini è una cosa spaventosa. Esatto, c'è cioè questa signora che hanno evitato tutti in paese da sempre, e invece loro due solitudini che si incontrano. Lui non riesce più a guardare avanti e questa signora non fa altro che guardare indietro. E quindi l'idea di ora, dell'adesso, è il fatto che non dobbiamo certamente ancorarci a quello che ci è successo, perché altrimenti non riusciamo a vivere il nostro presente, ma allo stesso modo non possiamo sperare di guardare in quella piccola finestra che è il futuro e farlo continuamente, perché anche quando guardiamo il futuro ci perdiamo il presente. E Al contrario, invece, l'ora è l'unico momento che può metterci in pace con il nostro passato e che può generare il nostro futuro. Siamo allo spazio dedicato all'audiolibro. Oggi un classico dei classici della letteratura americana, Il Grande Gatsby, scritto nel 1925 da Francis Scott Fitzgerald. Di questo romanzo si è parlato moltissimo, è ritornato addirittura anche in classifica un paio di mesi fa, grazie al film con Leonardo DiCaprio. La voce narrante del Grande Gatsby non è il Grande Gatsby in persona, ma è un altro dei personaggi che popolano questo romanzo. Un romanzo che ha narrato gli anni venti, i costumi, la musica di quell'epoca, come il jazz. Noi lo sentiamo appunto in versione audiolibro di Emmons, recitato dall'attore Claudio Santamaria. Al tempo in cui ero assai più giovane e vulnerabile, mio padre mi diede un consiglio sul quale da allora continuo a riflettere. «Quando ti viene voglia di criticare qualcuno», mi disse, «ricorda che a questo mondo non tutti hanno avuto i tuoi stessi vantaggi». Non disse altro, ma noi comunicavamo parecchio in un modo nostro e riservato, e dunque capii che intendeva dire molto di più. È per questo che sono sempre propenso a sospendere il giudizio. Abitudine che mi ha fatto conoscere parecchi soggetti interessanti e mi ha anche reso vittima di non pochi scocciatori di professione. Una mente anormale riconosce subito questa qualità e se ne approfitta quando si manifesta in una persona normale. E fu per questo che al college mi accusavano ingiustamente di essere un politicante, perché venivo messo a parte delle pene segrete di strani sconosciuti. La maggior parte di quelle confidenze arrivavano senza che le cercassi. Spesso ho finto sonno, preoccupazione o uno stile indifferenza quando capivo da certi segnali inconfondibili che una rivelazione intima si profilava palpitante all'orizzonte. Perché le rivelazioni intime dei giovani, o almeno le modalità con le quali le esprimono, di solito sono poco sincere e guastate da palesi omissioni. Sospendere il giudizio è una questione di infinita speranza. Ho ancora un po' paura di perdere qualcosa se dimentico che, come suggeriva mio padre in maniera un po' snob e come io ripeto in maniera un po' snob, il senso della dignità fondamentale non è egualmente distribuito alla nascita. Anche per oggi è tutto. Vi ricordo che anche questa versione estiva del Cacciatore di Libri, Parole e Musica è presente sul nostro sito www.radio24.it. Andiamo in onda ogni sabato alle 16, la versione tradizionale del Cacciatore di Libri, come sempre alle 6.45 per chi si sveglia presto anche il sabato e alle 21 dopo il GR. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.